voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese. Seconda puntata. Non dissi ad Amelio che ero uscito con Linda. Adesso entrando, prima cosa si sentiva quel profumo. La finestra era aperta, ma nel freddo sentivo il profumo. Guardavo in terra i mozziconi, si erano sporchi di rossetto. Vedrai che guarisci, dicevo. Basta fare esercizio. Che esercizio? Hai imparato a camminare da ragazzo. Con che gambe? Non mi parlava più dei fiori. Non si faceva più la barba. La bottiglia del cognac l'aveva finita. Se continui così le spaventi, dicevo. Chi? Le ragazze. Un mattino mi disse di portarmi la chitarra. Io in quei giorni bastava dicessi a bassa voce «Buono, Pablo», per sentirmi felice. Venni con la chitarra e seduto sul letto cercai di suonare. Lui mi ascoltava con la testa sul cuscino. Chiudeva gli occhi, come Linda, ma non s'accorse che suonavo male. Non disse niente. Io gli dissi «Domani porto qualcosa da bere». L'indomani mi sedetti nel caffè in faccia al portone e stetti mezza la mattina se vedevo Linda uscire. Vidi uscire la mamma di Amelio, vidi andare e venire la gente, ma Linda non venne. Salii col fiasco e la chitarra all'ora solita e suonai con più gusto e bevemmo e parlammo. Di sentirci il profumo di Linda non ero più così sicuro. Altre mattine mi appostai dentro il caffè, non la vidi passare. «Senti», gli dissi una mattina, «hai avuto fortuna che ti sei fatto male tu. Eravate ubriachi. Pensa un poco». «Ci ho pensato. Quella ragazza non si è fatta niente. Non si fanno mai niente le donne». «Ma eravate ubriachi?» «Chi lo dice?» Una volta mi chiese se andavo a ballare. «Non ne ho voglia», gli dissi. «Vado in giro». «Non hai voglia di donne?» «Non è stagione», dissi. «Stai senza tu, posso star io». «Quella specchiera», disse. «Sembra di essere al cinema». «Io vorrei che le donne mi cercassero loro», dissi. «Starmene a letto come te, lasciarle fare, tanto è lo stesso». Amelio si guardava lassù, senza rispondere. «Non lavori, non cerchi ragazze», diceva. «Sei giovane e hai la faccia contenta». Da quel giorno cercai, se andavo a trovarlo, di far conto che non avessi mai visto Linda. Pensavo alle gambe di Amelio e alla moto. Ma mi veniva in mente Linda. Me la sentivo contro il braccio e toccare il ginocchio ballando e che rideva e camminava. Non suonai molte volte nella stanza di Amelio. Non si poteva ubriacarci ogni mattina. Nel pomeriggio non ci andavo. C'era sua madre che girava in cucina e non voleva che bevessimo. Una volta mi tenne sull'uscio a parlare e non piangeva. Non alzò la voce, non voleva che Amelio sentisse. Mi diceva che già da bambino suo padre l'aveva battuto una volta e lasciato per morto perché scappava in bicicletta chissà dove, e che Amelio era stato malato di mal di capo per mesi e il dottore l'aveva guarito facendogli una puntura proprio in quella cucina. Cosa serviva l'ospedale adesso che ci tenevano la gente tanto tempo e non guariva? Gli mangiavano i soldi, poi mandavano a casa. Adesso Amelio non poteva più far niente. A sentirla discorrere così per sfogarsi mi vergognavo di essere io e aver portato la chitarra, e dicevo che Amelio era un bravo ragazzo che avrebbe trovato certamente un lavoro. «Guadagnava e spendeva», lei disse. «Spendeva con tutti. C'è qualcuno che ha fatto tanto di rendergli un soldo? Ho venduto la radio, ho finito il libretto. Che cosa gli hanno dato quella gente?» «Ha degli amici. Li vogliamo bene. Vengono solo per discorrere». Amelio si mise a gridare dalla sua stanza che mi lasciasse andare a casa. «Chi è sano non pensa ai malati», disse ancora la vecchia. Questa volta fui io che a Linda, la notte in collina, chiesi perché non facevamo qualche cosa. «Io ho fatto molto», disse secca. «All'ospedale l'ho curato, quando tu non sapevi nemmeno dov'era. Gli ho messo a posto i suoi pasticci. Chiedigli un po' chi ha salvato quei soldi a Novara». «No, non chiedergli niente», disse subito prendendomi il braccio. «Che non ti chieda lui qualcosa». Quando parlava così, era allora che io capivo chi fosse. Tante cose ci eravamo raccontato quella sera, tanti scherzi tra noi, ma bastava un momento per farmi paura. Se ci fossimo presi a parole in quel momento, non l'avrei più veduta. Non sapevo dove stava, né come viveva. Scherzavamo soltanto, scherzavamo su ogni cosa. Con lei scherzare era un piacere, era un modo di andare d'accordo, ma si sentiva che era un'altra. Tanto Amelio con te non ballava, le dissi al ritorno. Non c'è niente di male se andiamo a ballare noi altri. Hai ragione, mi disse. Discutemmo che Amelio ballare non poteva più, ma poteva ubriacarsi, poteva star seduto, poteva anche far l'amore. Lei diceva che Amelio doveva averne voglia di far l'amore. Tutti hanno voglia di farlo, diceva. Non sai? Poi mi chiese scherzando se Amelio non mi aveva mai chiesto di cercargli una donna. Gliel'avrei già mandata io, diceva. Ma non ne conosco nessuna. Non conosco che uomini. Una donna ci andrebbe da lui. Perché no? Allora dissi, tocca a te. Non voglio fargli questa cattiveria, disse lei. Linda mi disse l'indomani che voleva sapere quando andavo da Amelio per venirci anche lei. Voglio sentire i tuoi discorsi, disse. Quel che vi dite tra voi uomini. Ci andai nell'ora che la madre non c'era e portai la chitarra. Era rimasto un po' di vino e lo bevemmo. Posai la chitarra sul letto e lui la prese e toccava le corde. Stava zitto e ascoltava le corde a testa bassa. Se sapesse suonare, pensai, potrebbe uscire con le grucce e fare il povero. E allora mi accorsi che i poveri, tutti quelli che stanno sugli angoli e sono storpi e sono ciechi, hanno le croste, erano prima giovanotti come Amelio. Chissà se Linda ci pensava. Mi prese rabbia che venisse in quel mattino. Quando Amelio mi rese la chitarra, mi misi a suonare con calma, facendo conto di essere solo, e poco alla volta ci presi gusto e non smettevo, cercando i passaggi di motivo in motivo. Non so se Amelio mi capisse. Lui era di quelli che gli piace come canta una chitarra, gli piace la mano che gioca, l'abilità, non la finezza. Capiva un motivo, non capiva un passaggio. Mi guardava le dita. Un bel momento alzo la testa e vedo Linda sulla porta, col dito sul labbro, contenta. Amelio si era alzato sul gomito. Cominciò subito a parlare Linda e disse che nessuno al mattino la svegliava suonando la chitarra. Le facevamo di nascosto, ma stavolta voleva ascoltare anche lei. Venne a letto e guardò Amelio, gli toccò la coperta. Non disse niente del fiasco posato per terra. Io mi alzai dalla sponda perché lei si sedesse. A quest'ora, fece Amelio con la voce scurita, ma si distese e parve calmo. Io capii che dovevo andare via, scappare, che tanto era inutile. Linda aveva una sciarpa di seta celeste e si muoveva nella stanza come ci fosse stata sempre. «È da un pezzo che fate baldoria?» disse brusca. «Fatene fare un po' anche a me». Poi mi disse «Non parli?» «Senti, Pablo, ci diamo del tu. Gliel'hai detto?» Amelio zitto si guardava in quello specchio. «Non hai più voglia di suonare?» disse Linda. «Vado a fare il caffè. Guarda che ascolto». Passò in cucina. La chitarra mi pesava sul braccio. Avrei dato qualcosa per essere in cucina. «Fa come vuoi», mi disse Amelio. «Se vuoi suonare, suona ancora». Allora mi sedetti sul letto e posai la chitarra. Non suonavo, la toccavo, soltanto. Facevo finta di pensare e non accorgermene. Amelio si accese una sigaretta. Si sentiva in cucina a toccare le tazze. Linda gridò, «Vieni a aiutarmi!» L'incontrai sulla porta e le diedi un'occhiata. Lei aveva un bicchiere per mano e mi disse di prendermi il mio. Passando mi batté il fianco nel fianco. Quando tornai già si parlavano. «Ti farebbe un po' meglio che il vino», gli diceva, «se bevessi caffè». «Senti, lasciami stare», disse Amelio. Poi parlarono della moto. Linda gli chiese se quel tale era venuto a vederla. «Quando l'avrò veduta anch'io», disse Amelio, «ne parliamo». «Sono anch'io senza un soldo», disse Linda. «Chi sta bene è Pablo», mi guardava. Anche Amelio mi guardò. «Non suoni, non parli», disse Linda ridendo. «Non vuoi darmi del tu? Pensi sempre a far qualcosa per Amelio?» Amelio disse, «Cosa c'entra?» La chitarra l'avevo posata sul letto. Dissi di furia, «Vuoi che suoni?» Mi buttai sul motivo di prima e lo suonai come un matto, in sordina, ma senza saper bene dove andava la mano. E suonando sentivo un'altra volta il motivo piacermi. Era come un godere, ma sapevo che tanto era inutile, che avrei dovuto essere in strada. Mi ascoltarono senza parlare e alla fine Linda fece una smorfia. Amelio disse che era ben suonato. Non ti viene voglia di ballare? Disse Linda togliendogli di mano il bicchiere. Ti ricordi quel ballo da Gigi che c'era solo la chitarra? Amelio si animò. Ti ricordi? Disse Linda. Faceva un freddo che tutti tenevano il colletto voltato. Il suonatore si bagnava le mani nella grappa per resistere. Era ghiacciata anche la strada, disse Amelio. È la notte che siamo slittati. Roba da matti, sotto un portico, a gennaio. Linda raccolse un giornale da terra e disse: «Leggi tutti i giornali?» Poi disse a me: «Tutti i giornali di Torino sono i suoi». Io la guardai senza dir nulla. «Invece Pablo è come me, non li legge i giornali». «Ci perde poco», disse Amelio. Io non sapevo più che fare. Non sapevo se Linda era seccata con me. Non sapevo se Amelio ci aveva già capiti. Li guardavo parlare. Avrei voluto essere via, essere a Po. Pensavo a Linda in quella stanza con lui solo. Dissi alzandomi: «Addio, vado a casa». «Non vuoi più che stia qui?» disse Linda e mi fece occhi duri. «Non voglio niente», dissi brusco, «devo andare». «L'hai con me?» disse Linda. Alzai le spalle e ficcai la chitarra nella fodera. L'avrei rotta in due pezzi. «Dammi almeno una sigaretta», disse Linda. Sono sul letto e me ne andai. Quella mattina la finii girando a caso. Piovigginava e c'era fango. Ero in fondo a Torino su una strada sperduta. Mi venne in mente quella notte che andavo con Linda e lei s'era fermata sulla piazzetta e aveva detto: «Ma perché siamo insieme?» Chissà dov'era la piazzetta. Mi fermai. Su quella strada non passava un'anima. Linda invece era stata a cercarmi in negozio. Mi aveva lasciato un biglietto. Diceva soltanto che passate le lune andassi a trovare Amelio, che era solo. L'aveva scritto sul banco, dunque sperava di trovarmi in casa. Io da Amelio non ci andai e in quei giorni stetti molto in negozio. Stavo sempre sulla porta ed erano più le sigarette che fumavo che quelle che vendessi. Ma certe mattine di nebbia e di sole pensavo che Linda saliva le scale di Amelio e parlavano insieme. Lei gli toccava le coperte, lo baciava e abbracciava. Poi pensavo alla voce di Linda quando voleva consolarlo, gli diceva: «Ti ricordi?» Forse andavano a letto anche adesso. La sera me ne uscivo con questo e con quello, un po' con Lario, un po' con gli altri. Andavo a donne, andavo al cine, non parlavo più di Amelio. E se qualcuno ne parlava stavo zitto. Ma pensavo: tutto questo è per niente, perché Linda è una scema. E invece capivo che non era una scema e in sostanza preferiva Amelio, storpio, a me, che sapevo soltanto suonare come quel tale della grappa. E aspettavo, convinto che non sarebbe venuta mai più. Invece venne, con la faccia contenta, entrò, decisa. Non c'era nessuno e mi chiese se mi era passata. In quel momento rientrò mia madre e Linda, seria, comprò i francobolli. Così seria che mia madre non s'accorse chi fosse. Ecco, pensavo, questa è Linda. Ma poi si fece accompagnare sulla porta e mi disse che Amelio non l'aveva più veduto. Aveva al collo quella stessa sciarpa. «Vuoi che usciamo stasera?» mi disse. Così tornammo a uscire insieme e stavolta era chiaro che eravamo noi due e non più conoscenze. Linda sapeva molti posti in collina dove uomini e donne arrivavano in macchina e costava qualcosa di più, ma si poteva essere certi che nessuno ci conosceva e né Lario né gli altri sarebbero venuti. Si ballava tranquilli e poi si stava al tavolino a discorrere. Linda mi chiese se le orchestre mi piacevano. «Tu che suoni, deve essere bello», diceva. «Suoni bene davvero. Quel giorno ho capito chi sei. Perché non porti la chitarra al paradiso?» «Sei matta, ci mettono fuori». «Balliamo allora». Poi cominciamo a darci baci quando abbassavano la luce. Linda ballava stretta stretta e mi cercava lei la bocca. Lo sapevo da un pezzo che doveva finire così, ma con Linda era tutto diverso. Non sembrava una cosa proibita. Starle vicino e non toccarla non potevo. A poco andammo sempre al paradiso. Faceva freddo tra le piante. Io pensavo a una macchina o alla moto di Amelio. «Qui ci venivi con Amelio», le dissi una sera. «Ci vengo sempre quando posso». «Ci venivi da sola?» «Non si è mai soli in un locale». «Senti», le dissi, «dimmi tutto quello che hai fatto con Amelio». Mi guardava ridendo. «Non ti basta che siamo a ballare stasera? Non è meglio ballare che parlare degli altri?» Poi disse: Facevo una vita agitata, viaggiavo a Novara, a Saluzzo, a Casale. Lui mi portava con la moto qualche volta. Partivamo al mattino, io visitavo le clienti. Mi raccontò come l'aveva conosciuto l'anno prima. Era andata in Riviera a portare i modelli. Aveva fatto un bagno in mare, dimenticato sulla spiaggia la sciarpa celeste. È bellissima, disse, non si trovano più. L'indomani era andata a vedere la corsa. Arrivò un tale lungo lungo e gli spuntava dalla giacca di cuoio una seta celeste. Quella sciarpa è la mia. Amelio se l'era tolta e annusata e aveva detto vediamo. Poi le aveva annusato la spalla. Ha ragione. Così era stato il loro incontro. Non sapevo che Amelio conosce i profumi. Amelio è in gamba. Quella sera ballando cercavo il profumo di Linda e avrei voluto essere al mare, essere al sole insieme a lei e svegliarmi al mattino con lei, prendere il treno, lavorare e girare e sapere ogni cosa, quel che era stata con Amelio, quel che era stata da bambina, sapere tutta la sua vita. Linda s'accorse che le mani mi tremavano e si fece baciare e mi prese a braccetto tornando a sederci. «Cos'hai?» mi chiese, rossa in faccia. Tutto successe quella sera. Ricordo che Linda era molto agitata. Quella sera incontrammo Lubrani. Nel locale certe volte qualcuno faceva un saluto, ma per nessuno Linda aveva mai gridato. Lui venne fino al tavolo e le disse «Sei qua». Linda diede una voce e gli prese le mani. Io vidi appena che era grosso, un omaccio di sangue, con baffi e paltò. Cominciarono un gioco di botta e risposta e finì che dovetti allungargli un saluto e il cameriere venne a prendere il soprabito. Disse «Lubrani» e si sedette. Parlò con Linda e mi squadrava. Parlava lui, Linda rideva. Era di quelli che parlando sembra che facciano il solletico alle donne. Era venuto per ballare, era venuto per vedere, per trovare qualcosa. Si toccava i capelli e diceva «sono grigi». Linda gli disse che dappertutto si trova. Se lo covava a bocca aperta, lui la guardò con l'aria dubbia. «Tu hai trovato qualcosa?» borbottò dentro i baffi. «Fammi ballare questo giro». Abbracciandolo, Linda mi mandò un saluto con la mano e allora rimasi a guardarli, incerto, ascoltando la musica e i passi. E intanto pensavo alle piante di fuori, alla strada fredda, a tutte le sale da ballo e chi rideva, chi godeva, chi aveva dei soldi. Ma Linda era dentro la sala e fra poco tornava e dovevamo finire il discorso di prima. Finito il ballo non li vedo. Poi sento la voce di Linda e viene lei, viene Lubrani, viene un'altra ragazza biondina e si siedono. Io pensavo, questa qui cerca un pesce. E Lubrani ci disse che voleva festeggiare l'incontro e comandò del vino bianco e del liquore. Chi aveva trovato la bionda era Linda e le dava del tu, la chiamava Lili, li voleva accoppiare insieme. Disse perfino se la Clari lo sapesse. Ma Lubrani seduto parlava soltanto con Linda e alla ragazza che aspettava guardandosi intorno teneva il braccio sulla sedia e le batteva l'altra spalla come se fosse sua figlia. Adesso parlavano dei tempi passati quando Linda portava pacchi e scatoloni in teatro e la Clari faceva scenate. «Povera donna», disse Linda, «è sempre bella?» «Ho dovuto pigliarmela in casa», Lubrani ci disse guardandomi male come la colpa fosse mia. «Per fargli piacere», sorrisi. «Ma ogni tanto mi scappa», continuava Lubrani, «vuole ancora cantare, deve essere a Napoli adesso». E ci disse di bere, versò a tutti il liquore. Suonò l'orchestra, lui si alzò, prese Lili senza dir nulla e cominciarono a ballare. «Di dove schiude?» dissi a Linda, «questo merlo». «Era il padrone del teatro», disse lei sottovoce. «Da bambina portavo i costumi per le ballerine. Era sempre sulle scale a vederci passare. È più scemo dell'altro. I suoi soldi li ha fatti, non è poi così scemo». Linda doveva avere in mente la sua idea perché le ridevano gli occhi. Non era quel poco di liquore che aveva bevuto. Mi guardò come prima, quando insieme eravamo tornati a sederci, e mi disse «sta buono», toccandomi il braccio. «Chi è la bionda?» le chiesi. «Chi lo sa?» disse allegra. Quei due tornarono a braccetto, contenti di sé. La ragazza si dava calcetti per rimettere a posto una scarpa. Lui l'aiutava a stare in piedi. «Qui non si beve, non si balla», gridò subito, fermandosi. «Non conosco più Linda». Cominciava a seccare. Io questi tipi li ho veduti andare in terra al primo pugno. Ma in quel locale non ero ben sicuro di me. Dissi invece, si sta bene anche soli. Lubrani allora rise forte di gusto con quegli occhi apoplettici. Rise anche l'altra per tenergli compagnia. Si sedettero e pace. Così passò tutta la sera. Anche Lili divenne allegra. Raccontò che di giorno lavava e tosava dei cani, li pettinava e profumava e li portava al domicilio. «Se son maschi, apri l'occhio», disse Lubrani. Ma Lili non capiva lo scherzo. Dava troppo sul biondo. Io li lasciavo chiacchierare. Bastava Linda a dar risposta. Di tanto in tanto ballavo. Se era Linda, le tenevo la faccia all'orecchio e le dicevo: «Sei tu». Finalmente, tornando da un ballo con Lubrani, Linda disse: «Ce ne andiamo?». Fuori era freddo e si sentiva la collina. Gocciolava. Lili disse: «Era meglio restare». Salimmo invece sulla macchina di Lubrani. Un macchinone. «Si va a casa a finire la festa». Mi ero ficcato accanto a Linda e le strinsi la mano nel buio per dirle che avevo capito. Lubrani stava in un alloggio sulla Torre Littoria. Ci portò in una stanza che ricordava il locale di prima. C'erano le lampade nascoste dentro i muri e un grosso tavolo di vetro. Mise il grammofono e ci diede da bere. Mi sedetti con Linda su un sofà basso. Di ballare ero stufo. Lubrani e Lili ballarono per un poco in mezzo alla stanza. Sembrava fatta per quei mobili, la bionda, più di Lubrani, che muovendosi tremava il pavimento. «Se non piovesse», disse Linda, «di qui si vede tutti i tetti di Torino». Poi Lili cominciava a scappare e Lubrani a rincorrerla. «Spegni la luce», disse Linda. Bevemmo ancora. Quella Lili rideva forte come fosse un galletto. «Povera diavola», dicevo, «che si diverta proprio tanto». Si accucciarono insieme in un angolo. Li sentii che soffiavano e nel buio la mano di Linda prese la mia. «Cosa vuoi?», dissi mezzo ridendo. Stavo lì per dirle piano «chissà a meglio a quest'ora», ma non lo dissi e l'abbracciai e fu finita. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.